show flash. Nel tuo sguardo, una vita mai vissuta, lei che voleva volare alto. Tenebra senza espansa. Ruggisci oltre ruggine, vola. Oltre il muro dei tempi sfonda. Il muro sonoro in onda. La metafisica cavalca l'onda. Successo un'anima profonda, bolla. Cavalla. Il rap, onda sonora è la tua anima, maremoto. Donda sonora, io e te sublimi nel volo. Astronomico cosmico, ultravioletto 13 qui in replica in onda sfonda, con una mano nella tua penna l'immensa. L'immenso graffio riff shit è la firma della tua onda. Vibra, le anime ispira. Una nuova onda, una nuova forma d'arte dalla tua penna. Soffia. Show, flash, immenso. Nel tuo sguardo una vita mai vissuta lenta che voleva volare tenebra sedensa espansa, anima ruggisce oltre ruggine e vola. Oltre il muro dei tempi sfonde alma. Tenebra sonora in onda. Metafisica cavalca l'onda. Successo di un'anima vola. Cavalla vola e rock trap in fonda. Onda sonora la tua anima. Maremoto d'onda, io e te sublimi baci nel volo astronomico cosmico. Quarto terreno, Apollo 13 qui in replica, in onda sfonda con la mano e la penna l'immenso l'etereo graffio griff chic della firma della tua arte in fonda. E vibra le anime, ispira una nuova onda. Vibra, espira l'anime, una nuova onda. Vibra, le anime, ispira una nuova forma d'arte, una nuova forma d'onda. Io e te sublimi baci nel volo astronomico cosmico, Apollo 13 qui in replica in onda.